Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. La rimessa in gioco di Tostock, Riverino, un cross di Riverino, colpo di testa di Pelé, entra fino in vantaggio, ha segnato Pelé al 18° minuto. Ecco, vedete la rimessa in gioco di Tostock, il cross di Riverino e il colpo di testa di Pelé, sul quale Albertosi non può intervenire. Fuori segna! Tiro di Boninsegna, il pareggio di Boninsegna. Boninsegna ha pareggiato al 38°. Ecco, rivediamo il primo scontro. Poi ecco Boninsegna in riva, si scosta, lascia Boninsegna e la palla va verso la porta vuota. Magari fosse finita sull'1-1 come nel primo tempo, quell'Italia-Brasile che il 21 giugno del 1970 a Città del Messico non assegnò solo il titolo di campione del mondo, ma lo stesso simbolo di quel riconoscimento, cioè la Coppa Rimé che azzurri e verde e oro avevano fino a quel punto vinto per due volte a testa. Il vincitore di quella sfida, cui l'Italia arriva dopo il leggendario 4-3 sulla Germania Ovest e che vivrà all'insegna dell'assurda staffetta tra Mazzola e Rivera, conquista per sempre il prestigioso trofeo. Nel secondo tempo l'equilibrio si spezza e Pelé e soci dilagano. Passo Pureli, lancia pelota Pelé dominò, Carlos Alberto Salibi, correu Carlino, tirò gol! Finirà 4-1 e la Coppa Rimé se la porterà a casa quel Brasile stellare con Pelé, Rivelino, Jairzinho, Tom Stone, Gerson. Agli azzurri resterà un secondo posto carico di orgoglio, rimpianti, polemiche. Ebbene, quel 21 giugno del 1970 è un punto di svolta nella storia del calcio mondiale. La Coppa Rimé trova la sua casa definitiva e nasce quindi l'esigenza di immaginare di più, di realizzare una nuova Coppa del Mondo, che stavolta non verrà mai assegnata definitivamente a un solo paese, ma passerà per sempre tra le mani dei più grandi campioni del football. Il papà di quella coppa, che è poi l'attuale, se n'è andato in questi giorni a 95 anni, dopo aver ideato l'oggetto più prezioso e desiderato da ogni campione. È Silvio Gazzaniga, milanese, lo scultore che ha ideato quel trofeo. E proprio a questo maestro vogliamo rendere omaggio, risentendone la voce che nel luglio del 2006, alla vigilia della finale mondiale di Berlino tra Italia e Francia, ci raccontò proprio la genesi di quella coppa, di quell'idea di oreo massiccio e alta poco meno di 40 centimetri. Nel 1970 o 71 fu indetto un concorso dalla FIFA per sostituire la Coppa Rimé che era stata assegnata dopo tre vittorie consecutive. E io partecipai con tre bozzetti, anzi per essere preciso due disegni, come si suol fare, di solito si fanno i disegni, mentre invece per questa coppa, siccome era una coppa tipicamente scultorea, volevo che capissero il senso della plasticità e della materia e il modo anche che era stata realizzata, lo stile stesso rapido e dinamico, e allora ho fatto il modello in plastilina e poi l'ho fotografato e l'ho unito agli altri due bozzetti. Fortuna vuole che l'abbiano scelto e sono anche riconoscente per essere stati la giuria all'altezza, perché non era facile scegliere una coppa un po' inconsueta. E così, dopo alcune correzioni della geografia, perché volevano che si vedessero tutte le nazioni che partecipano ai giochi, l'ho messa in gesso e loro, oltre alla fotografia, hanno rivisto il gesso, poi è stato approvato e nel 74 è stata per la prima volta assegnata alla Germania. La coppa, fusa con la tecnica detta a cera persa, è in oro massiccio, appunto a 18 carati e, anche se vuota al suo interno, pesa 6 kg e 175 grammi, alta 36,8 cm e il diametro della base è di 13 cm. Il basamento è realizzato da due fasce di malachite verde, mentre intorno e al di sotto del basamento, in appositi riquadri predisposti, sono incisi, ciascuno nella lingua ufficiale della relativa nazione, i nomi delle nazionali che dal 1974 si sono aggiudicate il trofeo vincendo il mondiale. Franz Beckenbauer è il primo ad alzarla al cielo nel 1974, un'immagine che era rimasta negli occhi di Gazzaniga. Nel 74 è stata per la prima volta assegnata alla Germania. Il piacere di vedere Beckenbauer che la sollevava proprio con quella gioia che io avevo impresso le mie figure così che salgono in modo elicoidale e poi con quelle masse che comunque fanno emergere questi due atleti, però tenendoli uniti, compatti, morale sembrava proprio di vedere quasi i miei atleti, invece era Beckenbauer che per la prima volta aveva l'onore di alzarla con tutta la gioia che hanno quando vincono. Onore che tocca in seguito a Daniel Passarella nel 78, Dino Zoff nell'82, Diego Armando Maradona nell'86, Matteus nel 90, Carlos Dunga nel 94, Deschamps nel 98, nel 2002 il brasiliano Cafu, nel 2006 il nostro Fabio Cannavaro, Iker Casillas per la Spagna nel 2010 e il tedesco Philipp Lahm nel 2014. Il primo è quello che mi ha lasciato più meravigliato e più contento, e poi dopo è diventata un po' quasi un'abitudine di vederli, però è sempre una gioia vedere questa gente, che questi atleti meritevoli che la alzano, che la baciano e che l'hanno ambita parecchio, ecco. Cambiano le mani che la sollevano, resta immutato invece il significato profondo di quell'opera, di quel trofeo. Proprio quel senso della gioia e soprattutto il dinamismo dello sport, perché non è solo, sovente i profani guardano solo questi atleti, ma è anche la massa così trattata, dinamica, e che dà il senso della dinamicità dello sport. E poi anche il lasciarlo così grezzo, perché lo sport non è una roba da signorine, insomma, è una roba maschia. Proprio poco prima della finale dei mondiali di Germania 2006, la coppa era stata riconsegnata al suo papà, al suo creatore, per un necessario intervento di manutenzione. Era un po' malmessa, l'aveva lasciata cadere più di una volta. Nonostante che è una roba robusta perché è fusa, non è una lastrina come di solito, le coppe sono più oggetti di argenteria, diciamo, fatte di lastre, invece questa è fusa come una statua, praticamente ha proprio le caratteristiche dell'arte, non dell'arte applicata, è proprio come un'opera d'arte, ecco. Da allora la coppa ha un destino particolare, proprio per salvaguardarla e preservarla per le nuove generazioni. Contrariamente a quello che succedeva in questi anni, che veniva data per 4 anni custodita dalla nazione che vinceva, adesso invece la terrà la FIFA e le darà una copia con la scritta dell'anno che l'hanno vinta alle nazioni che sarà assegnata, insomma. Almeno fino al 2038, quando sulla sua superficie sarà esaurito lo spazio per iscrivere il nome dei vincitori, la coppa di Silvio Gazzaniga resterà il simbolo del più grande sogno del mondo del calcio. Un sogno d'oro massiccio, accarezzato dalle mani dei campioni più grandi. Ora una breve pausa, fra pochi istanti vi aspetto ancora qui a Olimpia. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presenta. Olimpia, miti e verità dello sport. Dagli splendori della Coppa del Mondo, che abbiamo celebrato riascoltando la voce del suo creatore Silvio Cazzaniga, alle polveri della violenza quotidiana che circonda il calcio nostrano. Di questo parliamo infatti nella seconda parte di Olimpia, perché è stato diffuso il terzo rapporto intitolato Calciatori sotto tiro, realizzato dall'Assocalciatori e che evidenzia i principali casi di intimidazione e violenza nei confronti di giocatori professionisti e dilettanti nel corso della stagione 2015-16. Allora sentiamo subito qualche numero in questa scheda. I dati presentati dal rapporto mettono in luce come in Italia il 61% dei casi di violenza si è verificato al di fuori degli stadi. In più di un caso su due, le minacce e le intimidazioni si sono verificate nei campionati professionistici, in particolare in Serie A 24% e in Lega Pro 19%. Le regioni coinvolte sono state 17 e 41 le province. È ancora una volta quello del sud e delle isole, con il 52% dei casi, il territorio in cui si è registrato il maggior numero di azioni intimidatorie e minacciose. Al primo posto troviamo le aggressioni fisiche, 23% dei casi, documentate anche da video e foto diffuse su internet. E nella maggior parte delle situazioni sono stati i tifosi della propria squadra, 55% dei casi, la principale fonte di intimidazioni, minacce e violenze per i calciatori. La sconfitta di una partita importante o di una serie di partite consecutive è il principale motivo che pone gli atleti nel mirino dei violenti, nel 58% dei casi. Questi i numeri da brividi contenuti nel rapporto che analizziamo da vicino col presidente dell'Associazione Nazionale Calciatori. Damiano Tommasi, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Buonasera a tutti. Allora, presidente, numeri che fanno paura, quelli contenuti in Calciatori sotto tiro. Quali gli obiettivi di questo studio, che, lo ricordiamo, è ormai arrivato alla sua terza edizione? Con questo nostro rapporto vogliamo proprio evidenziare che è un'abitudine, purtroppo, ed è il primo obiettivo al quale tendiamo, che è quello di non rendere, di non far passare per normale quello che normale non può essere. In realtà, insomma, i dati ci dimostrano che si dà spazio a intimidazioni, violenze non solo verbali ma fisiche, intimidazioni di varia natura e su tutti i livelli purtroppo del nostro calcio. Quindi l'evidenza di questo rapporto che da tre anni ormai cerchiamo di fare proprio per non abituarci è proprio questa, insomma, la reale invece abitudine e percezione che si ha del fenomeno, non solo da parte di chi subisce questo, ma anche probabilmente da chi ne è spettatore e magari sottovaluta il fenomeno. Quello che colpisce è che il maggior numero di violenza è perpetrato dai tifosi di una squadra non tanto contro i giocatori avversari, quanto contro i propri stessi giocatori. Come se il tifare, il pagare il biglietto, di fatto desse il diritto di disporre della vita, del destino, dei giocatori della propria squadra. Sì, no, ma è questa percezione che la squadra sia cosa propria e che, essendo abbonati o anche semplicemente essendo tifosi di una squadra e magari neanche frequentare lo stadio, ci si sente in diritto dovere di redarguire, riprendere, intimidire, richiamare all'ordine o assoggettare a intimidazioni i giocatori della propria squadra. Insomma, questo è purtroppo, lo dico sempre ogni volta che facciamo le presentazioni di questo rapporto, che è purtroppo diffuso anche all'interno del mondo del calcio, quindi gli stessi calciatori si sentono comunque in questo sistema che è visto come un effetto collaterale della propria professione, ma non come un'anomalia. In realtà è un'anomalia, perché in nessun altro lavoro dipendente si ha questo da parte di chi dovrebbero essere i clienti, se così vogliamo, perché il tifoso è fino al cliente ultimo dello spettacolo, dello sport, della passione sportiva, e che si sente in diritto dovere di redarguire, di richiamare, di addirittura preoccuparsi a che ora si va a letto o che vita privata si fa al di fuori del campo. Presidente Tommasi, va tuttavia anche evidenziato che a fronte del notevole numero di episodi violenti, Il numero delle denunce all'autorità giudiziaria da parte dei giocatori che le subiscono è comunque invece molto basso. Perché secondo lei? Ma diciamo subito che il rapporto è stato fatto sulla base di notizie giornalistiche, mezzo stampa, mezzo web o TV o radio, e quindi denunce fatte e episodi che sono conosciuti a tutti, quindi è di sicuro un rapporto, un report fatto a ribasso, perché c'è tutto un non detto e non denunciato che appunto da una parte proviene dalla consapevolezza o dalla convinzione che sia normale, se si perde, subire alcuni atteggiamenti, dall'altra la paura di peggiorare la situazione nel momento in cui poi si deve rimanere a vivere in quella città, piuttosto che essendo certe intimidazioni anche rivolte non solo alla propria persona ma ai propri familiari o alla propria abitazione o alla propria macchina, e quindi si tende purtroppo a volte a non denunciare anche per evitare di peggiorare una situazione che si spera o come spesso avviene con una vittoria, con un risultato positivo si risolve da solo. Vero è, Presidente, che in molti casi si crea una sorta di zona grigia in cui interessi di calciatori e tifo organizzato si mescolano, si sovrappongono, creando così una complicità che poi è il terreno su cui spesso attecchisce la violenza. Ecco, come state lavorando per fare chiarezza in questa zona grigia? Ma sì, allora, abbiamo fatto delle norme a livello federale l'anno scorso per dire anche qual è la posizione dei calciatori, in cui gli stessi calciatori hanno chiesto che la prima sanzione in caso di rapporti anomali con le tifoserie fosse la squalifica e quindi la giornata di campionato saltata eventualmente, proprio perché fosse un deterrente incisivo e non la semplice multa. Eravamo gli unici in Consiglio federale a pretendere questo, alla fine siamo riusciti ad ottenerlo, ma credo che sia sintomatico di come il fenomeno è visto anche all'interno del mondo del calcio, come se fosse una cosa da sbrigarsi da soli e come non fosse giusto prevedere la squalifica in caso di rapporti anomali, ovviamente in caso di intimidazione, di chiaro evento minaccioso, e non quando c'è dopo una sconfitta magari l'applauso piuttosto che il saluto ai tifosi che sono andati in trasferta, che nulla hanno a che vedere con quello che invece è un rendere conto. Anche umiliandosi talvolta o peggio ancora togliendosi le maglie, perché a detta dei tifoserie, cosiddette tifoserie proprie, non si è degni di vestire quei colori, insomma, tutta una serie di comportamenti che negli ultimi anni hanno rischiato di degenerare e che poi fanno intendere che ci sia una commistione anche di interessi da parte di chi è intimidito e da parte di chi invece va allo stadio pensando di dover educare chi sta in mezzo al campo. Da qui a un anno, Presidente, commenteremo insieme i risultati del prossimo rapporto calciatori sotto tiro. Ecco, su cosa lavorerete per migliorare i numeri e le cifre del rapporto 2016? Ma intanto che ci si renda conto all'interno della categoria che è giusto denunciare, che non è normale subire quello che si sta subendo. E poi probabilmente evidenziando questo anche far rendere conto i calciatori che a volte la confidenza data a persone, a personaggi che girano intorno al nostro mondo e che in realtà hanno ben altri interessi che non sia la sola fede sportiva, deve essere di massima attenzione e non può essere gestita con superficialità. Quindi anche le frequentazioni fuori dal campo o fuori dal campo d'allenamento, piuttosto che sono legato alla propria squadra, avere un occhio di riguardo in più perché merita e perché alla lunga ci si può ritrovare poi vittime e non più idoli e protagonisti della propria professione. Damiano Tommasi, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, buona serata. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.